I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. È allarme deflazione in Italia e nell'Eurozona. Pesa la repentina discesa delle quotazioni del petrolio, ma non è solo questo. Soffre tutto il carrello della spesa, ad esempio. Soffre l'agricoltura, con un crollo mai conosciuto prima. A febbraio in Italia l'inflazione scende a meno 0,2% su base mensile e a meno 0,3% su base annua. Era da 9 mesi che invece l'inflazione tentava una risalita. In Europa il quadro non è dissimile. Si registra sempre un meno 0,2% di febbraio su gennaio. Siamo formalmente in deflazione, che significa aspettative di prezzi ancora più cedenti, minori consumi, minori investimenti, meno occupazione, meno reddito, e soprattutto significa aumento dei tassi reali e quindi dei costi per l'indebitamento, a partire dal bilancio pubblico. Uno scenario giapponese, insomma, che finora pensavamo adatto solo alle case history per gli studenti di economia. Invece tutto questo sta succedendo davvero. Di certo la BCE avrà un ulteriore ottimo argomento per far sparare ancora una volta il bazooka della liquidità con munizioni ancora più pesanti dei 60 miliardi al mese inseriti finora sul mercato. Quello che serve però è una risposta politica dell'Europa con un piano di investimenti degno di questo nome e in grado di mobilitare risorse ingenti. Solo così si dà quella risposta efficace, quella scossa contro un fenomeno devastante quanto sottile da ambiguo. I singoli stati possono fare la loro parte naturalmente, ma possono mobilitare risorse limitate. L'Italia è tra questi e da oggi certo ha un argomento in più per insistere a usare tutti i margini di flessibilità nel bilancio pubblico. Sono in gioco una ventina di miliardi, pochi ma buoni, buonissimi per investire, a dire il vero. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Buone notizie per il PIL italiano, cioè la ricchezza prodotta dalla nazione, che nel 2015 è aumentato dello 0,8% dopo 3 anni consecutivi di flessioni, in rialzo anche rispetto alla stima provvisoria che indicava una crescita dello 0,7%. Il dato fa un po' ridere, nel senso che puntiamo a parlare di decimali, di 0, ma in un momento in cui anche le virgole contano nel negoziato sulla legge di stabilità con Bruxelles, il successo per il governo sembra buono. Detto questo, i problemi del paese non spariscono di certo con lo 0,8%. Anzi, proprio in questi giorni si è tornato a parlare di spending review e di revisioni della spesa e soprattutto di tagli di spesa e degli sprechi. In realtà anche lì andrebbe un po' rivisto il dibattito. Sarebbe ora, invece di parlare soltanto di tagli di spese, di riduzione degli sprechi ma con guadagni di efficienza. Se ad esempio si digitalizzasse la pubblica amministrazione con l'informatica, si potrebbero risparmiare 25 miliardi l'anno a regime, o come abbiamo visto in questi giorni è bastato centralizzare gli acquisti della pubblica amministrazione per generare dei risparmi di 10 miliardi di qui ai prossimi 10 anni. Tanto sì, è molto per un paese che oltre a soffrire gli sprechi continua ad affondare sotto le inefficienze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.